domenica, tutti allo stadio, tutti convocati allo stadio per sostenere il Toro, per tifare Toro in questa partita importante. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Cross allarga sulla sinistra per Marcelo, lo stop di petto di Ficarra e lancio, attenzione, per Cristiano Ronaldo. Sta per entrare in area di rigore, ancora Cristiano Ronaldo, il tiro, il gol. E che te lo dica a fa questa, una volta che è riuscita a liberarsi. Gol di Cristiano Ronaldo. Qualche volta il mondo sembra così freddo e stanco. I presupposti si erano creati, loro sono stati bravi, d'altronde hanno questa qualità, quando gli concedi un metro lo fanno diventare un chilometro, e noi invece non siamo stati altrettanto bravi come loro a concretizzare quel metro in più che avevamo, ecco. E chi gode a farti male per il gusto che c'è. Poi cross, attenzione Modric, ancora lo scambio. Attenzione al pallone verso Yesé, avanza palla al piede, vicino a lui c'è Benzema, ancora Yesé, tre in area di rigore, ancora Yesé, il tiro, il gol, ma maledizione, no però, ma no così, ma no così. Siamo amareggiati perché abbiamo giocato veramente, veramente bene. Andare a leggere questo score non ci piace, e secondo me neanche lo abbiamo meritato, si è visto anche alla fine comunque. Che i tifosi ci hanno applaudito, vuol dire che hanno visto una buona Roma, hanno visto che abbiamo lottato fino al 95esimo, e diciamo che questa è la strada giusta. Da dove si può ripartire? Ma ripartendo da questa Roma e ripartendo che non molleremo assolutamente niente anche al Bernabéu. Tutto passa e va, sogni e nostalgia, baci dolci e lacrime, e per fortuna che torna sempre un po' voglia di sorridere. Sì, voglia di sorridere magari con calma e a rate, per Luigi Pardo. Come va? Il Ronaldo furioso, ieri l'avevamo un po' detto, un po' anticipato. Ronaldo furioso, arrabbiato, che va via dalla conferenza stampa e che non segni più in trasferta, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio ieri sera risponde alle critiche, la sfortuna della Roma è incominciata lì, credo, prima della partita e magari in quella conferenza stampa. Sì, sì, sicuramente credo che sia stato già mai detto tutto, è stata una Roma discreta, secondo me comunque alla fine se perdi 2-0 in casa poi è sano e positivo che non ci sia troppo entusiasmo per perdere in casa. Secondo me è sano per gli stessi giocatori della Roma, per lo stesso ambiente giallorosso, considerarla per quello che è, cioè una sconfitta. Certamente è una sconfitta a testa alta, certamente è una Roma che per larghi tratti della partita ha fatto gara pari con il Real Madrid, e questo è indiscutibile, insomma. Però il risultato è un risultato che ammette poche possibilità per il futuro, semmai ecco, la Roma rimane a questo punto un po' di energia e la sensazione di poterlo stare per il terzo posto. Ecco, questo sì. Incantesimo, questo pensiero, la partita di ieri non l'ha certamente distrutto, la possibile qualificazione ai quarti di finale, sì. Sì, cioè, ma adesso sarebbe ridicolo pensare a un risultato diverso dal passaggio del turno del Real Madrid, che così manda via anche un sacco di fantasmi del neanche tanto recente passato. Però pochissimo da rimproverare a Spalletti, anche se lui ha fatto autocritica, forse potevo fare qualcosa di più, ha messo una formazione con Perotti falso 9, con Salah con la libertà di correre, ha di nuovo sacrificato Florenzi a terzino destro. È stata una Roma viva, brillante, però quando dall'altra parte c'è Real Madrid e c'è Cristiano Ronaldo, vabbè. Guarda, io credo che qui per onestà intellettuale uno debba dire quello che ha pensato quando ha visto le formazioni. E tu cosa hai pensato? Io ho pensato che era fatto bene, ho pensato che era una scelta logica giocare col falso 9, perché chiaramente doveva essere una partita di corsa e sacrificio per la Roma, e quindi il fatto di avere una rinuncia a un attaccante centrale, però con dei giocatori di maggiore di maggiore contributo, diciamo proprio aerobico, sì, e agonistico, poteva essere la scelta giusta. E devo dire che la partita l'ha abbastanza confermato. La Roma ha fatto gara pari per larghi momenti della partita. Poi la differenza è stata negli episodi, dove chiaramente il Real, essendo più forte della Roma, anche statisticamente è più facile che possa fare la differenza, no? Uh-huh. È più facile che possa segnare Cristiano Ronaldo se gli lasci un metro di spazio, piuttosto che Perotti o El Shaarawy, con tutto, certo, rispetto a questi, certo, due buoni giocatori, sì, e quindi è venuta fuori. Però insomma, ripeto, io penso che ieri sono successe le cose belle a, sì, Roma, nel senso che la Roma sicuramente non si qualifica, notte bella da altri tempi. Ha ritrovato il pubblico con qualche disagio in più, va sottolineato, proprio nell'organizzazione, nell'accesso con i tornelli, è stato abbastanza, da quello che mi dicono, complicato arrivare allo stadio. Però si è rivista la Sud, si è rivista uno stadio pieno, si è rivisto un feeling che mancava da tempo con la squadra, perché poi non dimentichiamoci che una parte del nervosismo e della rassegnazione era dovuto anche ai risultati della squadra, oltre che alla polemica interna, esatto. E ieri si è rivista una squadra e un ambiente unito per fare delle cose importanti. Secondo me il terzo posto è alla portata della Roma. Anche secondo me, anzi, continuo a pensare che in questo momento sia la principale favorita per quel piazzamento. Strade, torniamo subito, 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. Tutti convocati. Sì, è molto difficile da accettare sto risultato. È vero che questa squadra di Madrid è una buona squadra, ma non ci ha messo in grande difficoltà. È un po' duro sto risultato finale. Sicuramente la nostra squadra meritava di segnare almeno un gol. Sto risultato secondo me è un po' bugiardo, adesso è difficile da accettare ovviamente. Questo era Pjanic, quello che vi presento adesso invece, che conoscete molto bene, Giuseppe Di Piazza. Buongiorno, ciao Giuseppe. Devo marcare Pjanic, una brutta giornata allora. Devi marcare Pjanic. Sì, devi marcare Pjanic. Come stai oggi? Bene, grazie. Un po' un peccato per ieri sera, perché qui a Milano ci eravamo impossessati di un pub per guardarla, ma non è servito a niente. Beh, però sono d'accordo con Pierluigi Pardo, ovviamente collegato ciao, con ciao. Noi. Ciao Pierluigi. Ciao. Credo che questa sconfitta, magari sono troppo ottimista, però possa avere delle proiezioni positive sul campionato, al contrario delle proiezioni pesantemente negative che ebbero quelle due dannate partite, i due rovesci con il Bayern e con il Barcellona, che da quella partita col Bayern partì il declino della Roma di Garcia, e la partita di Barcellona ne ha segnato definitivamente la fine. Condivido. Vabbè. Metto I like. Sì, condivido anch'io, credo che ieri la Roma, anche nella formazione che ha schierato, abbia dimostrato di essere consapevole dei propri limiti, ma anche della propria forza. E quindi oggi è una squadra che alla quale Spalletti ha restituito, secondo me, una consapevolezza, una sua forza. Non è il Real Madrid, come si è visto ieri sera, non è il Barcellona, non è nemmeno la Juventus o il Napoli, ma è una squadra di calcio con delle qualità e che può tornare ad avere un percorso. Rimane secondo me un po' di rammarico per come sarà gestita quest'anno la crisi, perché come ho detto mille volte, lì o devi puntare senza se e senza ma su Garcia, dandogli una forza, un'autorevolezza, oppure potevi a quel punto cambiare prima. Questa è la mia idea. Su Pjanic, che abbiamo sentito prima, credo che sia forse il grande sconfitto della serata di ieri, perché una Roma che ha scelto di giocare una partita comunque di corsa e di intensità, qualcosa in più la doveva dare proprio lui e non è successo. È quello che lì deve, in quel ruolo, in quella posizione, deve accendere la scintilla, e lo fa a intermittenza, diciamoci la verità, nonostante sia un giocatore secondo me meraviglioso. Certo Giuseppe, che se il signor Kralovec, ceco di provenienza, è ceco davvero quello, ceco di nome, di fatto è cecato. È cecato, cioè sì. Stiamo parlando di un problema, poverissimo. se avesse, dai, lo sappiamo tutti, dai, se avesse arbitrato allo stesso modo faccio un esempio neanche tanto a caso, Roma-Juventus, saremmo già tutti in Parlamento, o in pretura. Un giorno in pretura. Meno male, meno male che non ha arbitrato Juve-Napoli, ecco. Controlliamoci così per la vita di noi tutti. Cosa dici, Giuseppe? No, ma hai ragione, ma guarda, io non sto lì a recriminare il rigore dato o non dato. La verità è che la Roma ieri poi non ha tirato nello specchio mai, cioè non si è mai veramente resa pericolosa, perché negli ultimi 10 metri, 12 metri, lì non abbiamo dei killer, abbiamo delle persone molto educate che arrivano in area e chiedono spesso permesso, posso, devo. Allora quello magari lo chiude. Chi ti riferisci? Salah? Ma Salah sicuramente. Dzeko, che ha avuto una palla che un qualunque centravanti tenace, cattivo, la buttava dentro, e poi anche El Shaarawy. Cioè l'insieme delle cose è un attacco molto mobile, molto intelligente anche. Esatto, è poco spietato, dai. Ma poco spietato, cioè che poi alla fine quando col Real, se non la butti dentro, è alla fine qualcosa la paghi. D'altra parte, secondo me, sarebbe un errore domandare 20 gol a Salah e non facciamo 15 a e no, 15 no, non a sono, Salah. Non sono, 15 a Dzeko glieli potresti anche 15 chiedere. A Dzeko, diciamo, 15 a Dzeko li puoi chiedere. Appunto, forse, sì. Forse questo sta il punto dolente. È la grande delusione della stagione della Roma, possiamo dire oggi, anche se, se in realtà il primo anno in Italia non è mai facile, e l'anno scorso aveva faticato, quindi però insomma bisogna anche essere onesti, io ce l'ho anche a fantacalcio, quindi non è che stia recriminando. Quindi però, insomma, sei speso, come dire, su Dzeko, capisco anche il dolore. Mi ha fatto l'asta al telefono, la cena con Enrico Ruggeri stasera, a un certo punto un'ora l'asta al telefono. Te l'ha regalato. Quella partenza è lì in grande difficoltà. No, però sinceramente insomma è chiaro che ha avuto anche qualche infortunio, ha avuto qualche acciacco, ha una squadra che non gioca per lui, questo va detto, nel senso che poi dal punto di vista proprio della filosofia di gioco la Roma è una squadra che ha degli esterni, era il caso di Jorginho prima, è il caso di Salah adesso, ha degli esterni che non amano molto il cross, ha degli esterni che cercano di più la soluzione personale, magari che rientrano per andare al tiro. Certamente io non so, Luigi, cosa ne pensi tu, ma l'idea che oramai questa moda assolutamente planetaria di invertire i piedi sugli esterni, questo rende poi alla fine il cross quasi una leggenda, perché chi è che lo va a fare? Salah, che è un mancino puro, messo a destra, e deve sempre rientrare, quindi fa un cross che poi è dalla, non dalla tre quarti, ma diciamo dal limite dell'area, quindi un cross diverso, meno pericoloso di quello che faceva Balzaretti, cioè alla questa fine e questa è veramente di alto livello, questa è proprio la roba da Beppe Bergomi o da Balzaretti, la qualità. No, è vero, sono è chiaro che se tu scegli chiaramente di invertire, il fondo è la parisiano dirlo, però se scegli di invertire i piedi, cioè di dare praticamente ai giocatori col piede destro la possibilità di partire a sinistra e viceversa, chiaramente aumenti le possibilità che possano andare al tiro con efficacia, ma diminuisce la possibilità. Guarda, se non ricordo male, fu qualcosa proposto per le prime volte da Nils Liedholm, cioè il terzino sinistro, l'esterno sinistro può accentrarsi e calciare con il suo piede forte. Anche dietro, se Biro Nero ha giocato per tanti anni in testa, poi però da sinistro, ma assolutamente, sì, è vero, Liedholm l'ha fatto, Liedholm teneva Bruno Conti a destra, Sì, Liedholm teneva Bruno Conti a destra. Esatto. Un altro punto, molto importante, molto interessante, Francesco Totti. Allora, ieri è successo questo, è entrato, come avete visto, per Florenzi, che è il nuovo capitan futuro, perché anche De Rossi, insomma, mi sembra sia vicino a... sia lontano dai giorni prossimi. Siamo nel capitan passato prossimo. Florenzi è il nuovo capitan futuro, possiamo dirlo. Il capitano, cioè Francesco Totti, ieri sera è entrato 42esimo secondo tempo, Florenzi ha dato la fascia, poi esce dal campo, gli viene dallo stadio, gli viene richiesto un'intervista da un cronista spagnolo e Totti lo guarda un po' così e dice: ma che ce fai ormai con me? Io non conto più niente. C'era lì anche Spalletti che l'ha guardato brutto. Mi sembra davvero un'uscita di scena all'ultimo del Piero. Mi ricorda l'uscita di scena dell'ultimo del Piero. Beh, in realtà l'uscita di scena dell'ultimo, guarda, io penso che in generale, tanto per fare 0-0, Roma e la Roma abbia trattato Totti meglio come la Juve in quel momento lì, dopo quelle famose dichiarazioni, abbia trattato Del Piero. E siamo d'accordo. Su questo non credo ci siano grandi dubbi. Però poi le circostanze hanno fatto sì che Del Piero si sia ritagliato per meglio suo, per merito della squadra, e devo dire poi anche per eleganza e per sensibilità da parte della società, un'uscita di scena fantastica, che io ho avuto modo, il piacere e l'onore di raccontare. Non sto parlando della festa finale, però, Pierluigi. Parlando dell'andamento del campionato, quante volte abbiamo visto Conte mandare Del Piero a scaldarsi a due minuti dalla fine? Sì, non era carino, non erano gesti gentili. È difficile gestire il declino anagrafico, perché il declino anagrafico è il più implacabile. Poi alla fine uno come Totti, che guarda questi ragazzi lì che giocano la sua partita, perché io a Madrid c'ero nel 2008. Lui giocano lì la sua partita, e lui, il Real, doveva essere anche la sua squadra. Ma c'ha un insieme di emozioni molto forte, e sa di non poter essere più di quel gruppo, perché non c'ha il fisico per reggere. Può reggere un quarto d'ora a quei livelli, ma già è tanto, cioè è micidiale il ritmo. È una squadra che gioca, come dire, lenta, il Real. Poi vai a sbattere contro il Barcellona, i ritmi sono ancora peggiori, o con un certo Bayern. Però insomma, lui ha fatto quello che poteva per dominare la propria malinconia, ma è un uomo che sta vivendo malissimo il declino fisico, il declino anagrafico. Sì, questo glielo si legge in faccia. Questo glielo capiamo, si legge in faccia. La battuta al giornalista spagnolo, invece, secondo me, io non ero ieri sera all'Olimpico, ma se un po' lo conosco, è la battuta di uno essenzialmente onesto e anche ironico, certo, e anche autoironico, che semplicemente ha detto ci sta, secondo me, e fa parte ed è nella cifra di un personaggio, secondo me, comunque leggendario, che sicuramente, no, ma sicuramente, sai, ma io sto dicendo la nota di tristezza, negli ultimi anni ha ingannato con il suo ritorno, cioè Totti è tornato a vivere, parlo di 2 anni fa, di 3 anni fa, delle stagioni di altissimo livello, sicuro, non ha avuto un declino graduale come quello che ha avuto per esempio Shevchenko, che a un certo punto dopo 32-33 anni è comunque calato, poi ha avuto parametra la stagione passata, era ancora un giocatore importante nella scorsa stagione, quest'anno ha avuto quel lungo infortunio, però adesso sembra davvero il capitano non giocatore di Coppa Davis, e questo è molto triste, anche, ma una tristezza che gli si vede in faccia, gli si legge impotenza quasi, di poter dare qualcosa alla squadra, e i palleggi con il ragazzino, che poi lo fa con gesti molto dolci, anche quella frase al cronista spagnolo è qualcosa di molto dolce, che assomiglia a qualcosa di crepuscolare, però, no? È questo. No, vabbè, è una battuta da Anna Magnani, quella, eh? È una battuta da Anna Magnani. Fai con me? Cioè, che ce fai? Che se fai con me? Ormai non conto più nulla. Spalletti l'ha guardato brutto. Spalletti sta cercando di gestire questi ultimi sprazzi del capitano, però. Siamo tutti ma non è la sua priorità. La priorità è ricostruire una squadra. Ha ridato identità alla squadra, abbastanza sicurezza. Ma anche giustamente, non è la sua priorità. Giustamente, certo. No, c'era una squadra che era allo sbando, purtroppo. E mi dispiace, perché Rudy García è una persona che ho stimato, che stimo, sono molto per bene e carina, ma negli ultimi tempi è stato di non gestione per un insieme di motivi. Luciano Spalletti dimostra di essere un grandissimo tecnico, un motivatore, una persona che ha carisma anche su questi ragazzi, e ognuno di loro gli ha spiegato che deve fare, e questi ci credono e lo stanno facendo. Certamente. Perché ieri reggere un'ora con quel Real, in cui vedevi soltanto il monte ingaggi, era impressionante la differenza, ma il tutto, cioè sono due pianeti diversi. Abbiamo retto un'ora, è stata una dignitosissima partita, tosta, molto seria, molto concentrati tutti loro, compreso Szczęsny, che ha fatto dei rilanci ogni tanto buoni, ogni tanto no, ma insomma è stata una bellissima squadra da vedere. Poi sì, non abbiamo tirato in porta. Il 2-0 toglie proprio qualsiasi velleità, no? Di poterla in qualche modo riaprire. No, adesso la Roma deve andare là a giocare una partita sulla falsa riga di quella di ieri sera. Cioè, adesso quello che viene richiesto alla Roma è di andare là e giocare una partita estremamente seria, perché conosciamo bene quali possano essere i rischi di quella trasferta a Madrid. No, puoi andare a imbarcare un sacco di gol. Bravo. E lì poi diventa un secondo problema. Perché io ritengo che comunque sarà molto difficile non prendere tanti gol a Madrid, perché loro andranno lì con questo retropensiero del tanto siamo fregati. Quindi il tipo di impegno che hanno messo ieri sullo 0-0 dei 180 minuti non sarà lo stesso impegno che metteranno sullo 0-2 di partenza. Giuseppe, l'esperienza recente insegna che non si tratta soltanto di tenere il pallottoliere, si tratta dei riflessi che una sconfitta pesante può avere, certo, su quello che la Roma deve fare, e la Roma deve assolutamente combattere, certo, come fosse, come partisse sullo 0-0. È una, gli si chiede un'impresa sportiva, non il passaggio del turno. Ma la Roma degli ultimi anni ha nettamente esaurito il bonus delle figuracce. È stata una squadra che ha fatto grandi cose e che però in queste grandi cose ha due problemi. Primo, che non ha vinto, e comunque nello sport i secondi posti sono molto utili per le finanze, per la Champions League, per tanti buoni motivi, però poi alla fine non vincere mai. La Roma, sai, collezionista di secondi posti, questa cosa alla lunga diventa un problema. E la seconda è che in questa storia anche europea di partite di discreta continuità, perché insomma la Roma gli ultimi anni è stata discretamente continua, ci sono state però due o tre macchie che l'hanno condizionata, e l'hanno condizionata dentro e fuori. Fuori a livello di rapporto con i tifosi, di rapporto di sport con i tifosi avversari, e vabbè, questo alla fine è anche un dettaglio, ma soprattutto dentro. Questa squadra, quest'anno l'abbiamo rivisto, che dopo Barcellona è implosa, e un po' è implosa perché era in difficoltà, certamente, con gli infortuni, Salah, Gervinho, probabilmente era in grande difficoltà, ma molto anche per il contraccolpo psicologico di quella partita. Certo, certo. Giuseppe, ti ringrazio. Grazie Giuseppe. Ma grazie di Piazza, a voi. Grazie, ci sentiamo alla prossima. Carmine Antonio, state lì, siete convocati e già in linea, siamo già a bordo campo con il cartello in mano. Ci fermiamo per il traffico e per la borsa e torniamo. Se Marcello sa che in Italia tutti dicono che Ficarra e Picone, quella storia lì del comico, se lo sa, ecco, se è arrivata fino in Spagna questa notizia, oppure no, per scherzare. Ride! Sì, mi hanno contato, però non conosco. Ecco, allora guarda, la prossima volta te lo facciamo conoscere, perché siete davvero uguali, capito? Ed è un complimento per te, ecco. Va bene, insomma. Grazie e complimenti al Real Madrid e alla tua partita. Grazie. Prego. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Guarda, è arrivato Marco Bellinazzo, cui regalo una frase di De Laurentiis, che ha parlato dicendo: dobbiamo essere coscienti della nostra capacità di fare spettacolo, giocare un calcio divertente e concreto. A Torino abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto al passato, non abbiamo vinto solo per un errore nostro che ha generato in pratica un autogol. Non dobbiamo piangerci addosso, anzi siamo vivi e cazzutissimi. Non posso rimproverare nulla alla squadra Sarri, stiamo facendo benissimo. Beh, parole sante. Vediamo. Buon pomeriggio. Sono curioso di vedere dalla partita di questa sera, soprattutto quella di lunedì con il Milan, di verificare le condizioni del Napoli. Questo sì, è Napoli, un punto importante. Che non è uscito ridimensionato dalla sfida con la Juventus, l'hanno già detto questo. Reduce da una lunga influenza, per cui insomma non so bene cosa è stato detto, cosa è successo. Hai preso la zazite. La zica brasiliana, giusto? All'88esimo la zazite. De Laurentiis ha ragione, dai, io penso che sinceramente, poi lo sai, sono giorni che ne parliamo, che il Napoli giocava alla pari, che quel tipo di partita lì è stata una partita bloccata da una parte e dall'altra, e poi alla fine chiaramente facciamo i complimenti alla Juve, rimproveriamo qualcosa al Napoli, ma soltanto per il risultato, che comunque chiaramente non è un dettaglio, ma in realtà quel tipo di partita aveva un suo senso, sì. Quel tipo di partita tatticamente aveva un suo senso, anche se non è stato il massimo del divertimento, aveva il senso di bloccare la Juve, e il Napoli c'era riuscito, ha giocato poche alla pari allo Juventus Stadio. Ma adesso ha questo scenario non semplicissimo, perché ha due partite di Europa League, sappiamo che l'Europa League è bella, però è difficile, impegnativa, rompe un po' le scatole, si gioca di giovedì, è vero che poi giochi lunedì, però insomma è una competizione abbastanza complessa, a febbraio soprattutto, molto intensa. Vero. Sì, però forse non è poi un male andare in campo presto dopo la sconfitta di sabato sera, cioè questo turno può essere faticoso, però può permetterti di riandare... No, sono d'accordo, non è il Bruges in casa. La partita che stasera, io penso che il Napoli sia più forte, ma puoi anche perdere, magari ti tira fuori altri dubbi. Sì, e altre, sì. Questo per la forza dell'avversario. Cioè, chiaramente penso che Napoli sia favorito al Villarreal, ma penso che sia 60-40, quindi non è esattamente una passeggiata nel parco. Ecco, sì. Non è Napoli Midtjylland del girone che San Paolo, 6 cambi, 5-0, tripletta di Gabbiadini. Chiunque entra segna, insomma, un po' diverso. Senti Pier, fammi alzare il cartellone luminoso per far entrare in campo Carmine e poi Antonio. Carmine, buongiorno. Sì, buongiorno, salve a tutti. Allora, senta, per quanto riguarda la partita di ieri sera, volevo dire questo. Premesso che io ho sempre fatto una distinzione tra grandi squadre, squadre medie e squadre piccole. La Roma è una squadra media, il Real Madrid è una grande squadra. Ma se a questo aggiungiamo la differenza, diciamo, del netto ingaggi, come dicevate prima, se a questo aggiungiamo anche tutta la storia del Real Madrid e la storia della Roma, ieri sera la Roma ha giocato meglio del Real Madrid, li ha messi sotto, e se a questi aggiungiamo che a questa grande squadra a Goria, no? Gli concedi la possibilità di non avere due rigori, nel senso che a Davide i due rigori gli sono stati cancellati, quello su Florenzi e quello su El Shaarawy. E bisogna anche dire questo, perché la Roma rispetto al Real Madrid è Davide, il Real Madrid è Goria, però Davide ha messo sotto Goria dal punto di vista del gioco. Sì. Ma se a questo aggiungi che l'arbitro non gli ha dato due rigori nettissimi, di che cosa stiamo parlando? Questo l'abbiamo detto. Questo l'abbiamo detto. Questo l'abbiamo detto. Salutiamo Amedeo Goria. Salutiamo Amedeo Goria. Che becco ogni tanto negli stadi. Che è all'ascolto. Sono cose che abbiamo detto. Poi è molto di moda parlare di fatto. No, è vero, sì. È vero, guarda, io ti dico, a noi per mentalità tendiamo a essere poco piagnoni. Ma quando succede, succede. Ieri è successo. Era successo, per esempio, anche se si può discutere, alla Juve nella finale di Champions, un episodio secondo me non assolutamente certo, nel senso che io non ho il classico rigore, quello su Pogba, che si può dare e si può non dare, ma che certamente se fosse stato dato avrebbe potuto cambiare quella finale. Ieri la Roma sicuramente Non gli ha detto bene, non disse bene quella notte in cui Mijatovic segnò il gol della vittoria alla Juventus. Gol sul quale ancora si dispera in casa juventina. In campo anche Antonio, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Sinceramente io non la penso come quella l'ascoltatore. Sinceramente io dico che basta, quando io sento è uscita tra gli applausi e poi hai preso 2-3 gol, hai perso la partita 2-0, 3-0. Sinceramente a me questa cosa non, se io ho visto tante partite, non lo so neanche io, cioè, mi sono scocciato, è uscita tra gli applausi. Poi il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, anche ci mettiamo anche la Juve, sono squadre nettamente superiori, perché tu a Roma secondo me non puoi, sì, lascia perdere il rigore dato non dato, però secondo me il livello di gioco si vede, secondo me si vede. Vede che Real sia più forte della Roma, che abbia che il fatturato del Real, che il fatturato va di modissima, è proprio l'ultimo trend irrinunciabile, Berinazzo. Non si può parlare senza menzionare il signor fatturato, ormai non lo fa più nessuno. Ma sarebbe illogico. Poi si vede che l'ascoltatore non ha mai visto una partita di rugby della nazionale italiana dove prendono botte e gol tutte le volte, pure escono tra gli applausi. E qualche volta gli diciamo anche che sono bravi. Ma peraltro voglio dire una cosa. Fatturato sì, fatturato no. Ora, l'Atletico Madrid ha appena depositato il suo ultimo bilancio, un fatturato di circa 180 milioni, più o meno quanto meno dell'Inter, meno del Milan. Pure, scusate, è una squadra che in questi anni è stata capace di offrire un gioco bellissimo, magari non bellissimo, ma comunque efficacissimo. Qual è il fatturato dell'Leicester? Il Leicester praticamente ha un fatturato di circa 140 milioni, siamo a livello del Napoli. E questo dimostra che un certo anno, messi insieme determinati giocatori e messi insieme da un allenatore che li sa guidare e sa far sì che questi giocatori diano il meglio, si possono ottenere dei risultati, e questo credo che sia che faccia parte di quella imprevedibilità del calcio, ed è quello che ce lo fa amare, chiaro, nonostante chiaro, i fatturati. Marco, altro discorso. L'Atletico fra l'altro ha avuto, e questo è uno spot secondo me per l'Europa League, ha avuto un approccio in Europa League eccezionale, perché ha costruito Atletico Madrid e Porto, secondo me sono neanche il Siviglia, sono le società che negli ultimi anni attraverso l'Europa League hanno ottenuto la possibilità di conquistare dei grandissimi traguardi, e questo secondo me non è casuale, perché Atletico Madrid e Siviglia sappiamo fanno parte della borghesia del calcio spagnolo, ma insomma non devono vincere il campionato, anzi sono quasi rassegnate a non vincere, al di là del fatto che l'Atletico poi ci è riuscito con un'impresa incredibile 2 anni fa. Però partono sapendo che nelle 38 partite non possono tenere il passo con Real e Barcellona, e il Porto gioca un campionato che è un campionato minore come diventa, no? Quindi io credo che l'Europa League sia un grande strumento, anche dovrebbe esserlo anche in Italia, per cercare di guadagnare posizioni. È meno bella della Champions, ovviamente, per guadagnare posizioni, scusami Pier, ma anche per forgiare quella identità di squadra che ti permette poi di competere, di avere una dimensione europea, di competere anche magari anche a livello nazionale. L'Atletico Madrid ha vinto un campionato non 20 anni fa, un paio di stagioni fa, oltre appunto ad aver sfiorato anche la Champions League, per pochi secondi è stata battuta, e dimostrano tutto questo, che il calcio, diciamo, può non dipendere dai fatturati. È chiaro, no, che il discorso, allora, è legato a una stagione. Bravo, il discorso è legato a una stagione. Se tu vuoi stare lì stabilmente, allora è un'altra storia. Cambia, però sulla stagione non mandi a giocare, come dico sempre, l'estratto conto. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... convocati. Marco Sotto, che tra poco se ne devi andare, quindi ti abbiamo convocato anche per un paio di delucidazioni importanti. La prima riguarda l'Inter, continua il viaggio della speranza, forse, non so se della speranza, comunque il viaggio di Torreira in Italia, concluso l'accordo con la Pirelli, c'è un debito impressionante da sul tavolo. Sì, c'è una situazione che è quella che conosciamo, ne abbiamo parlato qui molto spesso, l'accordo con Pirelli è un accordo importante, ma certamente non quello che si auspicava. In pratica ci saranno circa 9-10 milioni di fisso all'anno. Oggi l'Inter, gli ultimi lanci segnalavano una Pirelli con un assegno, insomma, di circa 12 milioni e mezzo, 12 milioni e 2 all'anno. La cifra fissa adesso è più bassa, ma sono previste dei bonus in caso di vittoria, per cui più o meno si dovrebbe pareggiare. Però qualche gocciolina nel mare di quel debito. E chiaramente ci troviamo di fronte a una situazione in cui ci sono due soci, in particolare Moratti, che ha deciso di uscire, al di là di quello che ha detto, che ha una cosiddetta clausola put, cioè la possibilità di prendere il suo pacchetto azionario e metterlo nelle mani di Toir, da qui la può esercitare da qui al prossimo novembre. Sì. Ha deciso di farlo perché chiaramente la situazione è quella, nonostante quella, le smentite. Quella che la smentita serve, insomma, per tranquillizzare l'ambiente, per fare le cose con più calma, e per quello che Toir ha dato mandato al Goldman Sachs di cercare dei soci che possano rilevare questa quota, ovvero una piccola quota della sua maggioranza. Per il momento Toir non ha intenzione di cedere la sua maggioranza. È chiaro però che c'è una, diciamo, alla fine di questo percorso una situazione molto complicata dal punto di vista finanziario. Io ho scritto, insomma, a proposito dell'Inter, ho usato questa espressione del too big to fail, che finanziariamente parlando, insomma, sarebbe equiparabile alle grandi banche, no? Che non possono fallire perché sono troppo grandi. Ecco, l'Inter ha un blasone, una rosa, per cui non mi immagino uno scenario del genere. Cioè, fra l'Inter e Banca Etruria, qual è più grande l'Inter? Scusa, ecco, diciamo che diciamo, Banca Etruria, no? Banca Etruria ha già fatto... Si diceva che le banche d'Italia... Qui ha fatto il suo percorso, Banca Etruria, insomma, non ha ancora definito per tutti gli aspetti, insomma, ma comunque lo lascerei ben distante dalla situazione dell'Inter. Con ciò non disconoscendo il fatto, anzi, lo abbiamo sempre detto, esponendoci anche, insomma, alle critiche di molti interisti, che l'Inter aveva rischiato tantissimo, aveva fatto questo famoso all-in, se non so se vi ricordate. Sì. Ha scelto semplicemente di investire subito. Se non va in Champions? Se non va in Champions si dovranno cedere dei giocatori, si dovrà rivedere il piano industriale. L'Inter tra l'altro ha l'obbligo quest'anno di chiudere a meno 30 imposto dalla UEFA per le sanzioni. Sì. Si parte da un meno 140, insomma, tanta roba. Non so come si arriverà a quella soglia, senza poter mettere sul piatto del prossimo incontro con la UEFA appunto i soldi certi che arrivano dalla Champions sia direttamente che indirettamente. Uh-huh. L'ultimo contratto appunto con Pirelli è una testimonianza, se va in Champions ho 2-3 milioni in più all'anno. Questa rivalutazione a ribasso del fisso, della quota fissa con Pirelli, in qualche modo è parente di quello che ci dicevi a proposito di Moratti? Assolutamente sì, diciamo che c'è il nuovo socio di maggioranza di Pirelli che è Chemical China, quindi un socio cinese che ha spinto molto per il rinnovo, perché sappiamo l'interesse della Cina per il calcio, e quindi anche una sponsorizzazione illustre come quella con l'Inter doveva essere conservata. Però evidentemente si è voluto abbassare il fisso, si è aumentato molto il variabile, cioè addirittura l'Inter potrebbe arrivare a 19 milioni all'anno qualora vincesse la Champions. Sì, sì. Però comunque quindi è quasi sana, no, come cosa? Sì, diciamo che si è voluto scommettere sul rendimento dell'Inter, per quello diventa determinante ciò che accadrà nei prossimi 2 o 3 mesi, e Toir e Moratti hanno scelto, diciamo, la strada ora della tranquillità, del silenzio, dell'accordo, per far andare avanti il progetto tecnico di Mancini, per lasciare Mancini nelle condizioni di poter effettivamente tentare la scalata a questo terzo posto, che sembrava insomma quasi l'obiettivo minimo solo qualche settimana fa, non lo è più adesso, però potrebbe tornare a esserlo nei prossimi mesi se le cose andranno meglio. Dammi una lettura per finire della battuta che abbiamo letto nella lunga intervista di Re Berlusconi sulla Gazzetta dello Sport, alla battuta "non venderò mai". Non venderò mai. Beh, sai, Berlusconi, sappiamo il suo umore e il suo amore per il Milan. Diciamo che gli ultimi risultati quasi quasi gli stanno facendo venire voglia di andare avanti da solo, insomma. Capito, ma basta, qualche partita Berlusconi, vinta per cambiare tutto. Berlusconi lo conosciamo, poi sai, intervistato il trentennale dell'acquisto del Milan. E così, insomma, avrebbe quasi voglia, insomma, di andare avanti da solo, soprattutto chiaramente se non verranno messe sul tavolo delle risposte alle richieste che lui ha fatto a chi si è presentato per comprare il Milan. E sappiamo che ha chiesto tanto il Milan, ha chiesto tanto alla Fininvest, chiede tanto Berlusconi, sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista giuridico, perché non è che cede e basta, vuole prima la minoranza, poi si va in borsa, poi durante comando io, comandi tu, questo lo decido io, insomma è complicatissimo. Quindi in quella frase un fondo di verità esiste. Assolutamente esiste. Che quando si tratta di Milan, insomma, Berlusconi non ragiona semplicemente come un imprenditore, ma questo insomma lo sappiamo da oltre 30 anni. Grazie Marco, ti devo lasciare andare. Grazie a voi, a presto. A prestissimo. Ciao. Intanto Pio da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. A proposito di Totti, volevo dire qualcosa. Dica. Ecco, io penso che Spalletti abbia avuto una caduta di stile pazzesca, perché far entrare Totti a 3 minuti dalla fine è vergognoso. Il caso Rivera non ha imparato niente da tanti anni. Totti non meritava di essere trattato in questa maniera qui. Se il mister ritiene che non sia in grado di giocare a calcio, non lo fa giocare per nulla. Farlo entrare per 3 minuti è una grandissima presa in giro che Totti non meritava assolutamente. Io sono abbastanza d'accordo, Pio, così come facevo lo stesso discorso a proposito di Conte e di Del Piero. Qualcuno scrive, ma io non capisco, sono un fan di Del Piero, non è nemmeno paragonabile l'uscita di Del Piero grandiosa con quella di Totti. Piaccio pure o no, la scelta impopolare della Juve ha fatto sì che io Del Piero ricorderò con il gol nella fantastica giornata tributo contro l'Atalanta. La giornata tributo contro l'Atalanta non c'entra nulla. Quello che dico è che la gestione di Totti nell'ultima stagione juventina fu molto simile a quella attuale di Francesco Totti. No, c'è un aspetto tecnico e un aspetto societario. Secondo me Totti in assoluto nella storia della Roma ha un'uscita di scena migliore di quella di Del Piero. Parliamo dietro con la memoria. Adesso oggi chiaramente è tutto a posto, è tutto pacificato, e noi abbiamo nella testa invece quello che è successo ieri con Totti, che sta succedendo in queste settimane con Totti. Però ci sono tanti momenti complicati con Del Piero. Detto questo, ha ragione l'ascoltatore che poi Del Piero, innanzitutto Del Piero si è andato da vincitore, cioè ha abbandonato una squadra con lo scudetto, con il ritorno allo scudetto, segnando in quella partita. Poi lì, lo ribadisco, in quella circostanza la Juve ha fatto le cose in grande, nel senso che ha veramente dal punto di vista della comunicazione, indiscutibile, creato e favorito tutte le condizioni. Sto parlando della gestione agonistica dei due giocatori, cioè della gestione del crepuscolo agonistico dei due giocatori. E in entrambi i casi, a me quello di Del Piero mi è sembrato totalmente inelegante da parte di Conte. Da una parte il giocatore è stato mandato via, e quindi alla fine stiamo dicendo la stessa cosa. Da una parte è stato mandato via perché per una visione un po' più laica. e quindi poi alla fine chiaramente il ricordo è positivo, perché abbandona nell'ultima giornata del campionato di ritorno al successo della Juve, eccetera. Dall'altra parte invece questo coraggio di mandarlo via, questa quasi cosa blasfema di mandare via il giocatore, non c'è, perché Totti nella storia della Roma è uno come Totti, lasciano fra... Ma guarda, io credo che le società comunque abbiano pieno diritto di non andare avanti a pagare la pensione alle loro stelle. Cioè, secondo me è un discorso che ci sta. Meno ci sta l'umiliazione di quei pochi minuti finali in campo. Senti, in 30 secondi cosa fai stasera alle 11? Stasera alle 11 e mezza, dopo 10 secondi su Totti, che un anno fa, a gennaio del 2015, andava all'occhietta nel derby, era ancora calciatore. Sì. Cioè, questa stagione, la prima stagione, è veramente complicata, è un peccato che stiamo facendo in scena così. Stasera facciamo maggioranza assoluta, 23-30, Italia 1, e vado, faccio una cosa nella quale a un certo punto ci sarà anche del calcio, perché poi l'abbiamo tirato in mezzo, ma è essenzialmente un talent, una cosa a metà fra un talk show e un game show, con la gente da casa che potrà votare tra 5 opinionisti su temi di attualità il proprio preferito, e alla fine avremo un leader, un vincitore della serata. Ci sono Luxuria, Formigoni, Francesca Barra, Filippo Facci, Andrea Pucci, comico di Colorado e non solo. Ci saranno molte sorprese, molta contaminazione, ospiti in studio, e vediamo, insomma, speriamo di divertirci e di avere un tono leggero. Domani ti dico se mi è piaciuto o no, va bene, sarò aspettato. Sarò aspettato. Devi essere onesto, va bene? Aspettato. Ciao Pierino, bocca al lupo. Ciao. GR, poi torniamo. Sarà con noi. Aspetta. Tutti convocati. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Convocati. Non sono parda a debuttare stasera in TV con un nuovo programma, ce n'è un altro di cui vi parlerò tra poco con un grandissimo che ne sarà l'interprete. Poi vi faccio sentire anche che cosa ha detto oggi Allegri, vi faccio sentire qualche voce di vigilia dell'Europa League, ma intanto Antonio da Venezia, buongiorno. Sì, ciao ragazzi, stavo ascoltando il programma. Sono un po' stupito, oltre ad essere un tifoso non sportivo. Il fatto che Del Piero a fine carriera e Totti a fine carriera siano stati, tra virgolette, maltrattati dai loro allenatori, tutto sommato penso che ci sia per ogni professionista nel mondo, non solo sportivo, anche del lavoro, può succedere che a fine carriera qualcosa non vada per il verso giusto da parte di chi lo comanda. Quindi non mi perderei più di tanto a trovare mille aggettivi per maltrattamenti. Poi Totti è una persona maltrattamenti, cioè maltrattamenti è una parola grossa. Avete detto voi. Ma sono maltrattamenti sportivi alla luce della carriera che hanno fatto. Cioè se lei chieda a Del Piero o a Francesco Totti, certo, di entrare come l'ultimo dei ragazzini un giovane tifoso romano che stravede per la squadra e stravede per Totti, ovviamente viene un attimino caricato a molla nei confronti di Spalletti in questo momento. Quindi forse non è il caso che l'allenatore sia preso di mira in questo modo per una scelta che potrebbe anche essere discutibile, non lo metto in dubbio, ma insomma deve lasciare il tempo che trova. Sono cose che succedono in un percorso di uno sportivo e soprattutto di un professionista, a tutti i livelli, in tutti i settori. Mi rendo conto che il vostro sia un programma che ovviamente parla di calcio e parla di tifosi, però a volte i toni forse sarebbe meglio tenerli un po' più moderati, per non caricare troppo i toni, soprattutto. Ecco. No, vabbè, ma se uno viene caricato da queste cose ha dei problemi, secondo me, Antonio. Se viene caricato da affermazioni di questo tipo ha dei problemi suoi che noi non possiamo certo risolvere. Il discorso è che io lo ripeto e lo penso davvero, cioè un grande campione va bene a fine carriera, va bene un professionista, e loro si sono comportati entrambi. Totti si sta comportando, Del Piero si è comportato da grandissimo professionista, quindi questo è un punto. L'altro punto è che impiegare queste leggende, queste bandiere per i rispettivi club e per le rispettive tifoserie come l'ultimo dei ragazzini, secondo me è qualcosa di Facciamo inelegante, preferisce che dica inelegante? Allora lo dico, è qualcosa di inelegante. Però la situazione, la verità è questa, io lo penso, non posso far finta di nulla. Cioè, fossi stato Del Piero non sarei stato certo contento che il mio ex compagno di squadra Antonio Conte avesse messo mi avesse fatto alzare dalla panchina negli ultimi 5 minuti per poi farmi giocare il tempo di recupero. Ieri Totti è entrato al 42esimo e l'ha fatto ovviamente da professionista con grande signorilità. Non mi sembra una cosa elegantissima. Dicevo che stasera parte, oltre a parte anche un programma che io non vedo l'ora di vedere perché sono già divertito. Siete una cazzo di squadra da incubo. Come hai detto, Gianluca Vialli? Non posso dirlo a quest'ora. Ciao Carlo. Ciao, grazie Gianluca. Siete una cazzo di squadra da incubo. Non lo dico, qualche lo volta dico. Ci vuole. Bisogna dirle in faccia le cose e devo dire che le realtà che abbiamo visitato erano veramente delle cacchio di squadra da incubo. Quindi bisognava dirglielo subito per l'idea mi fa impazzire. Io non l'ho ancora visto, ho visto i tre, lo vedrò stasera quando grazie. Comincia 21:15 su Antv8. Sì. Però da oggi TV8, scusa se devo dire, da oggi si chiama solo TV8, quindi togliamo la M. Mi fa impazzire l'idea di vederti con il tuo elegantissimo blazer inglese. Fare il manager ad interim in mezzo al fango e in spogliatoi che definire, non lo so, precari è un eufemismo. Certo, è questa l'immagine. Sì, per questo mi sono portato un braccio destro, uno sceriffo, Lorenzo Amoruso, che è stato straordinario e che è perfetto per lui. Lavora con i ragazzi in campo, sì. Si cambia. Io invece sono più un guru, un po' sono super. Fai il manager? Sì, il manager, lavoro, mi occupo dell'allenatore, del presidente, della tifoseria, cioè, ho più, scelgo la strategia. E la cosa bella è che noi ci fermiamo lì una settimana e ogni puntata è proprio il racconto di questo percorso, che è un percorso di cambiamento in cui noi ci rivolgiamo a queste realtà che sono piene di entusiasmo e di passione. E per questo noi le ammiriamo, ma anche c'è tanta confusione, c'è un casino, non ho idea di come si fanno arrivare. E quindi in una settimana cerchiamo di rimetterli sulla giusta strada. A volte siamo riusciti, con altre squadre magari è stato più complicato. Un po' più complicato, ma chissà quando vi vedono questi ragazzi qua. Arrivano subito col blocchetto d'autografo? No, guarda, in effetti la cosa bella è che abbiamo già registrato le puntate. Sì. Quando arriviamo, noi naturalmente abbiamo già mandato a fare dei sopralluoghi, quindi sappiamo vita, morte, miracoli di tutti, abbiamo deciso la strategia, però ci presentiamo e l'impatto è fortissimo perché loro ci vedono noi per la prima volta in maniera inaspettata e noi cominciamo a fare il nostro primo discorso di ingaggio in cui chiariamo subito quelle che sono le aspettative e sapendo, chiamiamo per nome, tu che poi lavori in quel posto e in quell'altro, tu c'è la bambina che piange di notte, cioè loro quindi dicono ma come cazzo, Vialli Amoruso, arrivano qua e sai tutto, di noi e quindi è abbastanza curioso. Quanto ti sei divertito Luca? Molto, molto, perché poi c'è stato un clima, insomma ci lavorava tanto, perché ci lavorava tanto, abbiamo girato l'Italia, abbiamo affrontato le condizioni meteorologiche, tra l'altro un paese che non ricordavo essere così bello e vario, no? Veramente sono stati in Calabria, in Abruzzo, quindi è stato molto divertente. Poi si è creato un ottimo clima anche con la produzione di Fremantle, i registi, gli scrittori, e quindi è stato eccitante. Adesso speriamo che venga accolto bene, perché poi alla fine, anche se voglio dire, è tutto vero, c'è recitazione, le telecamere erano lì, ma riprendevano cose che avremmo fatto. Lo fate vedere allenamenti e partite? Assolutamente sì, infatti la partita è il clou, cioè dopo questa settimana di full immersion e di lavori forzati, alla fine il test è la partita, a volte è andata bene, con altre squadre è andata meno bene, però alla fine per noi l'importante era piantare un seme, no? Cioè gettare un seme e spiegare un poco, perché poi alla fine, scusa ti do ancora 10 secondi, è l'ammirazione per questi ragazzi che lo fanno per passione, non per soldi, c'è, certo. Però noi avevamo anche il dovere di ricordare loro che quando ti metti la maglietta e c'è un campo e c'è un arbitro degli avversari, cioè devi farlo seriamente, se no vai a giocare nel parco o nel giardino. metti i maglioni e giochi da un'altra parte. Pensa però agli avversari di turno che sono lì che dicono: ma che sfiga, ma Vialli doveva arrivare proprio contro di noi. invece guarda, è vero, magari invece erano super carichi, super perché carichi. C'era il desiderio di dire: vabbè, adesso voi avete avuto questi due qua, noi però vi battiamo lo stesso e vi dimostriamo che siete e rimarrete una squadra in comune. No, quindi a volte può anche, diciamo, lavorare contro di te sta cosa. Posso dire una cattiveria? Certo. I miei livelli, quelli dici, volevi dire quello, quelli cosa? Sono i livelli che mi merito. No, non tu. No, forse sarebbe il caso di farlo anche all'Inter. Guarda, no, in realtà, voglio dire, queste sono realtà dilettantistiche le cui fondamenta sono proprio amore e passione. Però dicevo, c'è anche tanta confusione. Scuola di Serie A comunque c'è un'organizzazione perfetta, professionalità, tutti si impegnano, tutti hanno le idee chiare. Poi a volte le cose non funzionano, però non riteniamo di dover intervenire lì, ecco. No, ma non di quello che sta succedendo lì, no. Lasciamo lì Mancini, che una cosa così prendiamo un regista quello sì che ci vorrebbe. Prendiamo un regista che lo sanno anche i Sassi e lo sa anche la casalinga di Voghera che sarebbe un regista all'Inter a questo punto. Senti Luca, stavo parlando prima con gli ascoltatori, un tema di dibattito, sì, anche con Pardo eccetera, su questo mesto addio di Totti. Io ho detto, a me ha ricordato quello di Del Piero. Cioè, non mi sembra particolarmente elegante. Poi un ascoltatore mi ha bacchettato dicendo che non è vero, non mi sembra particolarmente elegante il grande campione farlo giocare gli ultimi brandelli di partita. A me è una cosa che non piace. So. Capisco il punto di vista. Io ti parlo adesso, e quindi insomma, da calciatore anche a me non sarebbe piaciuta una cosa del genere. Però forse mi sarei fatto la domanda: non avrei dovuto magari smettere un anno prima e così evitare anche questo tipo? Da allenatore ti dico, uno che fa parte della rosa, cioè, no, trattamento, certe, no, devi fare quello che serve alla squadra, l'allenatore e il giocatore deve fare quello che l'allenatore gli chiede, quindi anche 5 minuti possono essere importanti, avrebbe potuto far gol, lo so che è complicato, però l'allenatore deve scegliere senza dover guardare a... Ma dal punto di vista del giocatore non ti avrebbe dato fastidio? Molto, sì, molto, perché poi il giocatore è sempre convinto di essere nelle condizioni di giocare o di non essere trattato secondo quanto che sono i suoi meriti. Però a quell'età si vedono anche le cose da un'altra prospettiva e molti giocatori più maturi sanno che poi alla fine l'importante è essere utile, che siano 2 minuti, che sia mezz'ora, 90 minuti. L'importante è essere lì a dare una mano a tutti i compagni e all'allenatore. C'è una juventina che si chiama Elena da Mantova che scrive: ti amiamo ancora Vialli. Quanti cuori spezzati. No, un amore spezzati. Un amore calcistico. E devo dirti che per me, insomma, giocare nella Juve è stato un onore e un privilegio, però io ci ho messo tutta per fare quello che dovevo fare, per ripagare la fiducia. Credo che alla fine poi ho avuto molto, ma spero di aver dato... No, e la cosa che vorrei che non succedesse, io tutte le volte vado in giro, oramai io sono diventato quello che ha alzato l'ultima coppa e devo dire che mi fa piacere, per carità, però dopo un po', io spero che dopo un po' l'alzi presto, che così almeno, insomma, cedi volentieri lo scettro. Sì, volentieri. Luca, un'ultima cosa: siamo tutti qui a tifare l'Ester, sì. Tu sei di quelle parti, ma certo. Vuoi che ti parli inglese? No. All of us, we are fan of Leicester, for sure, but ma avresti dato una settimana di vacanze dopo? No. E io neanche, no, sai, no, io neanche, no. Perché hai l'occasione della vita, sei lì. Sì. Dio santo, dai! Sono d'accordo. Allora, capisco Ranieri, anche perché è una cosa che hanno fatto in Inghilterra, succede, anche il Nottingham Forest di Brian Clough, che vinse 2 campionati venendo dalla Serie B, ogni tanto lui... Dopo le sconfitte soprattutto dava 5-6 giorni di riposo e credo che Ranieri si sia un po' ispirato a questa strategia, a questa tattica, però ho paura che mollando un po', cioè ogni tanto va bene un po' di riposo, ricarichiamo le batterie e ripartiamo come se, no? Come freschi, però rischi anche che si stacchi e poi non riattacchi più. Secondo me 3 o 4 giorni sarebbero stati sufficienti, una settimana mi sembra un po' troppo, però vediamo. Ranieri ha sbagliato pochissimo quest'anno e quindi magari... azzeccato. E tra l'altro l'Ester è davanti a tutti perché è l'unica squadra in Inghilterra che sa difendere bene, l'italiana, contropiede, esatto. E poi vanno a 100 all'ora le grandi veramente quando sentono parlare di Leicester, cioè odiano giocarci contro. Quindi, certo. Il segreto, che poi mica è un segreto, è quello: ordinati, atletici, pronti atleticamente e pronti tatticamente, perché c'è appunto quella fondamentale. E speriamo il campionato inglese, quello italiano è già finito, dai. Dici? No, sto scherzando. No, infatti anch'io. Poi voglio dire, io spero, allora, dietro credo zona retrocessione, ma speriamo che ci sia un po' di più. Poi però terzo posto, la Champions League, terzo posto credo che sarà emozionante fino alla fine, davanti speriamo che Napoli e Juve. Ho paura delle squadre che stanno lì, che sono tante, quelle che probabilmente già tra poco avranno poco da dire, non vorrei che venissero fuori partite un po' scontate. È vero. Grazie Luca, ti vedo stasera. Grazie. Un abbraccione. Sei molto gentile. Ciao Luca. Ciao. Adesso, Cesare. Buongiorno a tutti, sono Cesare da Torino. E viene dopo Vialli. Beh, dopo Vialli è stato qui, ma io non sono del Toro, non della Juve. Senta. Del Toro non della Juve, quindi porta poco se vengo dopo Vialli. Senta, ieri a quest'ora uno non so chi del vostro redazione ha fatto la storia di Ronaldo di quest'anno, che non segna, che sia un poco in trasferta, che sia solo contro le squadre deboli, che ieri sera gli fa un bel gol, gli ha fatto un bel gol destro sinistro di una prodezza balistica che è degno dei nostri Pirlo, dei nostri trattasi di Cristiano Ronaldo ieri sera 90° gol in Champions League, stiamo appunto, parlando mica di appunto, è contro una squadra forte, perché la Roma è una grande squadra abbastanza e ha fatto una cosa bellissima destro sinistro, è una bella un colpo di mortale, bellissimo. E io ieri quando sentivo questo qui gufare, vedete che stasera Ronaldo ce ne stampa, ed è andata proprio così. No, ma quello che ho detto io, insomma, tra sera e faceto ha fatto questa conferenza stampa, gli è stata posta una domanda da parte di un giornalista spagnolo, ma quest'anno segni solo in casa, com'è, in trasferta non segni più, lui si è imbestialito e se n'è andato via, e io ho detto non vorrei che l'avesse caricato a pallettoni per questa sera, non vorrei che fosse la Roma a dover pagare il conto all'orgoglio di un campione. Così è andata, purtroppo. Roberto, Roma. Sì, pronto? Pronto. Eccoci, mi sente? Sì. Va bene, niente, io volevo dire qualcosa sul discorso di Totti, ma non dal punto di vista dell'uscita, che chiaramente Spalletti ha sbagliato, ma proprio dall'impostazione della partita, perché io non penso che Pjanic abbia giocato meglio di quanto avrebbe potuto fare Totti magari per mezz'ora. E un campione come Totti, io non sono della Roma, comunque, ma amo il calcio, un campione come Totti contro il Real Madrid avrebbe esaltato le sue doti, e Spalletti ha chiaramente sbagliato. Ha sbagliato a non mettere Totti, così come ha sbagliato a non mettere De Rossi. Guarda, Roberto, però posso dire una cosa, io credo che né io né lei si abbia la reale percezione, una percezione concreta delle condizioni di Totti in questo momento, cioè non siamo in grado di dire cosa possa fare Totti in questo momento in una partita così. No? Noi parliamo di Totti e dobbiamo dar retta anche alla sua storia, ma anche alla sua storia recente. Se l'ha portato in panchina vuol dire che era abile e arruolato, non era infortunato, così come De Rossi. Spalletti ieri, non so perché qualcuno lo difenda ad oltranza, la Roma gioca meglio, ma ieri ha sbagliato la partita. A Spalletti manca quel tot e quel quid che lo rende grande, diversamente da allenatori tipo Capello, Ancelotti e come è stato anche Conte con Grinta, o come Allegri adesso con la Juve. Lui ha sbagliato, ha messo Florenzi al cospetto di Cristiano Ronaldo. Florenzi è bravissimo, ma non in quel ruolo che non è il suo, e non contro uno dei migliori attaccanti del mondo. E lo so, ha sbagliato. E lo so, però Spalletti fa anche con quello che ha, no? Quel ruolo è un problema che la Roma aveva e che non è riuscita a risolvere. E quindi chiama il soldato Ryan, e cioè Florenzi, dice: ascolta, anche stavolta va a giocare lì, e lui non fa una piega. È un grandissimo giocatore Florenzi, secondo me, un giocatore che mi piace da morire, e mi piace molto anche il suo modo di vivere il calcio, il suo modo di rispondere alle domande, il suo modo di stare al mondo, per quanto lo conosca molto relativamente. Però lì certamente la Roma ha un problema, come ce l'ha al centro della difesa, non è riuscita a risolvere questi problemi in maniera esaustiva nel corso del mercato. Quanto a Totti, se me lo chiede così a freddo ieri sera, fai giocare, poi non è questione di Pjanic, fai giocare falso 9 Perotti o Francesco Totti, io ti dico Totti tutta la vita, però magari Totti una partita nelle gambe non ce l'ha, questo non lo possiamo sapere. Vi faccio sentire invece chi giocherà domani, l'allenatore capolista Massimiliano Allegri. La partita di Bologna è una partita fondamentale per noi, è una di quelle partite che valgono un pezzo di scudetto, perché ci consentirebbe di andare a più 4 col Napoli e aspettare la partita del Napoli che gioca lunedì contro il Milan. Quindi è una partita che va giocata con testa, con tecnica, perché il Bologna è una squadra che sta facendo molto bene. Ha battuto il Napoli, ha vinto a Milano col Milan, ha battuto la Sampdoria, dopo 20 minuti vinceva con la Lazio 2-0. Una squadra che ha buona tecnica, ben organizzata, quindi noi bisogna essere responsabili dell'importanza della partita, sapendo che sarà una partita difficile, perché poi tra l'altro il Bologna è una squadra che ha 33 punti, se non sbaglio. Troveremo una squadra che vorrà batterci, perché vorrà essere la prima squadra che ci batte dopo tante vittorie. E questo era Max Allegri, pericolosa per la Juventus la trasferta di domani. Non sarà una partita banale, secondo me, per la Juve alla vigilia del Bayern Monaco, dopo aver agguantato il primato in classifica. E spesso accade nello sport, quando fai una lunga rincorsa e metti il naso davanti, quasi inconsapevolmente ti scende un po' l'adrenalina. Magari non sarà il caso della Juventus, però occhio domani sera a Bologna. Marco Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo dire se ha visto la partita, il posticipo di Lega Pro Cittadella Pavia. No, mi manca. No. Ha saputo, non so se ha saputo, che c'è stato un episodio, sì, verso la fine, erano sul 2-2, c'è stato un gol del Cittadella, sì, e praticamente in un primo momento è stato annullato perché il segnalinie ha indicato quel fuorigioco. Sì. Mentre c'era un po' di discussione, come al solito, ha parlato con l'operatore camera della RAI e gli ha detto: no, guarda che il gol è regolare, perché c'era un giocatore della squadra del Pavia sulla linea di porta. Sì. Allora questo gol è stato convalidato. Sì. Ecco, io penso cosa ne pensa di questa decisione. Che non, penso di questa decisione che non dovrebbe essere a termini di regolamento, perché l'arbitro non può parlare con il cameraman della RAI, perché fino a prova contraria questo non è... La moviola in campo non esiste al momento, attualmente, e spero anche in un prossimo futuro. In questo caso direi viva l'errore se è stato un errore genuino. Francesco, Stefano da Forlì, buongiorno. Salve a tutti, vorrei fare solo un po' di veloce matematica. Allora, veloce matematica. Ibrahimovic è stato venduto a 20 milioni, sì, in 5 anni sarebbe costato di stipendio circa 100 lordi, sono 120 milioni, meno i 30 che è costato quello che ha giocato al suo posto, sono 90 milioni. Sì. 5 anni di diritti Champions sono 120 milioni di euro. Sì. Allora, uno che gestisce la società in questa maniera... Avete visto Ibrahimovic l'altra sera, ancora il numero uno, penso che sia palese. Mm. Uno che gestisce la società in questa maniera o è un incompetente, è rimbambito, oppure è un disonesto. Bah, così, guardi, dite voi. No, non mi sono perso in mezzo ai numeri, e matematica non è mai stato il mio forte. Quello che mi limito banalmente ad osservare è che in quelle stagioni il Milan ha monetizzato quanto poteva insieme ad Ibrahimovic, non ha inserito nel suo computo Thiago Silva, ma comunque così è andata la storia. È arrivato un momento in cui il Milan ha deciso che quei giocatori non se li poteva tenere, e che a certe offerte di no non poteva dire. Grazie Giorgio De Luca, il nostro autore, grazie a Andrea Roccabella in regia, Federico Bini in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, ciao. Saluti.